Giovedì 9 maggio del 2013, 87.900, la modulazione di frequenza, Radio Onda Rossa. Dal 1977, senza padrini politici, senza padroni economici, la radio è di chi se la sente, che può contribuire a farla vivere. Ad esempio, sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56, 00185 Roma, oppure andando sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce sostieni, troverà la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema, Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Cominciamo con qualche minuto d'anticipo perché abbiamo qualche ospite in più rispetto a quelli previsti, un sacco di novità. Quindi per la scaletta potete consultare il sito internet della radio, alla voce trasmissioni Visionari troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 9 maggio, le nostre indicazioni, suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra rassegne, festival e proiezioni. E infine il link che rimanda sia alla puntata della scorsa settimana sia all'archivio del 2013 e del 2012. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Tra l'altro potete seguirci anche in streaming sempre dal sito internet della radio, oltre che dalla radio sugli 87.900 in modulazione di frequenza. Dal sito internet sulla home page di ondarossa.info c'è la modalità ascolta la diretta per lo streaming, appunto. Per gli SMS in diretta, che non so se sia al momento servizio che non so se sia al momento attivo, comunque 342 357 4357, e andiamo a cominciare la serie di collegamenti. Maria Paola Zedda, co-direttrice della prima edizione della Cross Asia Film Festival a Cagliari dal 15 al 18 maggio. Anna Paola, ben ritrovata a Visionari. Ciao Federico, ben trovati a voi. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Sono a Cagliari bene. E siamo in partenza col festival la prossima settimana. Mi hai mandato questa indicazione su questa prima edizione, mi interessava proprio la strutturazione del festival e il materiale che proporrete, raccontacelo un po'. Allora, Cross Asia si propone di fare ogni anno un focus specifico sulla cinematografia asiatica. E appunto quest'anno abbiamo deciso insieme a Stefano Galanti, che dirige insieme a me la direzione artistica, di aprire proprio con la New Wave Filippina, che è un movimento di artisti, registi e documentaristi che è nato nell'area di Metro Manila all'inizio degli anni 2000 e che ha una cinematografia molto particolare, dai tratti visionari, punk e anche molto surreali, soprattutto basata sul fatto che hanno appunto creato una corrente molto coesa in cui a bassissimo costo hanno fatto produzioni molto sperimentali, quindi abbiamo deciso di partire con loro. Rappresentano un po' l'avanguardia dell'Asia, secondo noi. Senti, allora, che tipo di materiale presenterete a questa prima edizione? Allora, ci saranno 6 lungometraggi, appunto tutti inediti in Italia, di cui 2 anteprime europee, che sono appunto questo Posas di Lawrence Facardo e Endless Room di Emerson Reyes, e poi ci sarà un approfondimento su un regista, Kevin de la Cruz, che è un filmmaker che appunto è particolarmente rappresentativo, ha scritto anche questo digital decalogo appunto su come liberare il cinema dalle grandi produzioni e riuscire a fare film di qualità a bassissimo costo. E di Kevin de la Cruz presenteremo il suo recentissimo Mondo Manila, che è un film, una commedia nera appunto ambientata negli slum di Manila, e poi Commander Kulas, che invece è un film quasi alla Jodorowsky, Philippine New Wave, che invece è un documentario sulla scena appunto della New Wave filippina. E poi seguirà Buenas Noches España di Raya Martin, già presentato a Locarno, che invece è un film proprio al confine con le arti visive. Il suo lavoro è stato già presentato per esempio a Kassel proprio come artista visivo. E poi invece un altro documentario sulla un altro film, The Rapture of Fate di Alvin Japan, che parla invece delle tematiche più legate all'immigrazione, alla condizione femminile, più impegnato socialmente, diciamo. Senti Maria Paola, più in generale, quali sono i tratti che contraddistinguono questa mescolanza di arti che si raccolgono intorno a questo fermento asiatico? Sicuramente sono linguaggi che puntano a una grande sperimentazione, sì, nel senso sì. Che il rapporto con la narrazione è anche molto diverso, non segue la linea classica della narrativa aristotelica, diciamo, ma si ibrida molto con lo storytelling, anche i generi entrano l'uno nell'altro, appunto. Dal documentario si passa alla commedia nera all'interno di uno stesso film, sono lavori molto appunto di confine. E poi c'è anche questo rapporto con la dimensione del reale, di riuscire a entrare dentro dei tessuti sociali non facilmente documentabili. Questa secondo me è una delle caratteristiche, almeno della parte filippina, più interessanti. E appunto questo rapporto con le arti visive è molto, molto forte, anche perché hanno una tradizione che comunque è molto ricca da questo punto di vista. Senti, e Cagliari come ha accettato questo come ha accettato questo progetto? Esatto. Lo vedremo, siamo agli inizi. Comunque sicuramente è una cosa piuttosto sperimentale, per cui stiamo procedendo attento, ne abbiamo coinvolto molto anche la comunità filippina, abbiamo il sostegno dell'ambasciata, loro sono molto attivi, faremo anche degli eventi collaterali, diciamo, cercando di renderli partecipi, anche perché e la comunità di immigrazione non conosce ovviamente questo tipo di cinematografia. Senti, i luoghi di questa kermesse? Allora saranno la Cineteca Sarda, che è un po' il centro di produzione e di riferimento della Sardegna, soprattutto a Cagliari. Poi il Teatro di Sant'Eulalia, che è un cinema che sta all'interno della chiesa dove loro si riuniscono, e quindi ci è sembrato comunque idoneo prendere uno degli spazi, entrare nei luoghi di riferimento della comunità. E poi invece ci sarà un opening nella parte più legata all'arte, alla moda e al design di Cagliari, diciamo, quella più legata all'arte contemporanea, dove ospiteranno appunto una delle presentazioni del festival, che sarà il 14 maggio. Previsti ospiti? No, purtroppo no, siamo all'inizio, quindi dobbiamo un attimo, speriamo nelle prossime edizioni di poterlo fare. Bene, bene. Ci dà indicazioni internet per la programmazione? Sì, allora il sito è www.acrossasiaff.org e la pagina Facebook è Across Asia Film Festival. Benissimo. Maria Paola, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Va bene Federico, grazie. Ciao. Grazie a tutti voi. Ciao ciao. Ciao. Maria Paola Zedda, co-direttrice della prima edizione dell'Across Asia Film Festival a Cagliari, 15-18 maggio. È con noi Haider Rashid, regista del film Sta per piovere, in uscita in sala oggi 9 maggio. Haider, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie mille. E anche complimenti, il film l'ho visto nell'anteprima stampa. E per chi ci ascolta, raccontiamo un po', racconta un po' per sommi capi il tema che affronti. Ma Sta per piovere parla di una famiglia algerina, i cui figli sono nati in Italia, che in seguito alla perdita del lavoro del padre ricevono un decreto di espulsione e quindi si trovano di fronte a questa tremenda realtà di dover tornare in Algeria, ma ovviamente i figli non conoscono l'Algeria, sono totalmente italiani. Haider, la spinta a raccontare questa storia da dove viene? Ma sicuramente c'è la questione dell'identità che mi è molto vicina, essendo io di origine mista, mio padre iracheno, mia madre italiana. E poi ovviamente mi sono sentito molto vicino anche alla questione della cittadinanza negata ai figli di immigrati, insomma è un tema molto caldo quello dello Ius Soli, e credo sia necessario fare un passo avanti, un passo di civiltà per riuscire ad includere nella vita del paese che ne ha bisogno anche le persone a cui non viene riconosciuta la cittadinanza. E quindi spero che con questo film si riesca anche un attimino a portare questa storia avanti e che più persone la conoscano e contribuiscano insomma a questo cambiamento. Si tratta ormai di una realtà di una certa consistenza, quella delle seconde generazioni qui in Italia, giusto? Assolutamente sì, ed è una realtà che sta crescendo, che non era presente 20 anni fa quando è stata scritta l'ultima legge sulla cittadinanza, e quindi il paese è totalmente cambiato, c'è una nuova Italia a cui le istituzioni si devono adattare, c'è un'Italia che è mista, che è meticcia e che deve essere accettata per quello che è, perché non si può negare l'esistenza di migliaia, centinaia di migliaia di persone che vogliono semplicemente avere un diritto riconosciuto, ovvero loro si sentono italiani a tutti gli effetti, vogliono semplicemente essere chiamati cittadini italiani, vogliono avere gli stessi diritti che hanno tutti gli altri cittadini italiani, e mi sembra una cosa molto semplice e molto basilare. Ecco, per chi ci ascolta, diamo anche un po' inquadriamo un po' quella che è la situazione legislativa al momento rispetto proprio alle seconde generazioni, allo Ius Soli. Ma se si è nati in Italia da genitori stranieri, immigrati, una volta raggiunto i 18 anni di età si ha il diritto di richiedere la cittadinanza, dovendo però dimostrare di aver vissuto in Italia da 0 a 18 anni. Questo diritto viene poi tolto all'età di 19 anni, che è una cosa direi veramente grave, perché dare un diritto e poi toglierlo dopo un anno sembra quasi che la legge sia stata scritta per evitare che venga data la cittadinanza. Ovviamente se c'è qualsiasi difficoltà nella dimostrazione della permanenza per 18 anni di seguito, succede come nel film, che appunto viene negata la cittadinanza e quindi poi si deve procedere con una richiesta di naturalizzazione, che però richiede molto tempo. Ovviamente poi i tempi della burocrazia italiana sono molto più lunghi di quelli che vengono descritti dalle leggi, e quindi come spesso succede, come insomma nel film, rappresentiamo appunto questi ragazzi che sono più di 5 anni che aspettano la cittadinanza e poi si ritrovano appesi a un filo che viene spezzato semplicemente perché il padre perde il lavoro e il permesso di soggiorno. Mm-hmm. E quindi questi italiani vengono poi espulsi, mandati via in un paese che non conoscono assolutamente. Haider, nella costruzione di questa storia ti sei rifatto ad un esempio diretto oppure raccoglie più storie questa vicenda? Ma io sono sicuramente molto legato stilisticamente a un approccio neorealista, sì. Ma anche a un approccio del cinema di denuncia, di protesta, quello che si faceva in Italia magari negli anni 60, 70, 80, Francesco Rosi o Gillo Pontecorvo per esempio. C'è un approccio molto, molto realistico, con delle performance molto, molto forti, è un film che va molto dritto al punto, facendo anche un discorso sui simboli, un discorso sulla retorica, sull'inno, che sono tutte cose che spesso in Italia non vengono viste di buon occhio, però per le seconde generazioni questi sono simboli fondamentali, l'inno, la bandiera possono avere un significato di arrivo ma anche di ripartenza. E quindi per me era importante raccontare nel modo più attinente alla realtà possibile una storia che comunque è ispirata a storie vere, in modo da riuscire a creare anche un'emozione nel pubblico che possa creare empatia verso questo protagonista Saib, che è ricalcato sull'archetipo di un eroe classico. Appunto anche a parte le seconde generazioni, la mia generazione, la generazione dei 20 anni, dei 30 anni di ora, hanno pochi eroi, hanno pochi simboli, quindi mi piaceva creare un personaggio che ha dei valori e una morale molto forte e che comunque non si abbatte e lotta per i suoi diritti. Haider, nel percorso di costruzione del film hai incontrato ostacoli o disponibilità? Ma diciamo che questa è una storia nuova, è una storia particolare, se ne parla tanto, ma al cinema se ne è parlato molto poco. Credo che probabilmente questo sia uno dei primi film, se non il primo, ad affrontarla in questo modo così diretto. Ovviamente è un film piccolo, indipendente, girato a Firenze, che è una città decentrata dal centro nevralgico del cinema in Italia, ed è un film che ha avuto un percorso molto rapido, però ovviamente molto, molto difficile, perché quando si fanno film con pochi soldi non è facile. E poi abbiamo fatto anche una scelta abbastanza radicale, ovvero quella di produrre il film in maniera indipendente e poi portarlo in sala in maniera indipendente. Quindi oltre alla produzione curiamo la distribuzione e siamo riusciti a trovare degli spazi. Ora, oggi il film parte a Roma, domani a Milano, dalla prossima settimana sarà in altre città. E quindi è anche un esempio dal punto di vista produttivo e distributivo di come si possano fare film che siano vicini alla realtà, siano magari storie locali, storie semplici, che è un pregio, credo, non un difetto, e si possono fare anche con capitali ridotti, mm-hmm. puntando anche magari a raccontare stilisticamente storie nuove che possano, speriamo, anche rinnovare un po' il panorama cinematografico italiano. Senti, i ragazzi e le ragazze di seconda generazione che in qualche modo hanno avuto a che fare con il tuo film si sono riconosciuti? Moltissimo, sì, abbiamo avuto reazioni molto emotive in tutte le anteprime che abbiamo fatto finora. Ovviamente Said sta diventando piano piano, come ho detto prima, un simbolo, un eroe, perché combatte, non tutti spesso hanno la capacità di combattere o la volontà o la forza, spesso di fronte a un dolore così grande, ovvero quello in cui ti viene strappato il tuo paese dalle mani, ci si abbatte e si accetta il proprio destino. Invece Said lotta e va avanti, e quindi spero che possa anche in qualche modo stimolare le persone che hanno questo tipo di problematiche a combattere per i propri diritti. Mm-hmm. Però quello che abbiamo visto è che anche all'estero, noi siamo stati al Festival di Dubai, e ora andremo al Festival di Sydney e di San Paolo in Brasile, finora c'è stata una reazione interessante, anche perché anche all'estero ci sono problemi simili in altri paesi, e la questione dell'identità, di essere tra due paesi e tra due culture, sta diventando una questione internazionale in qualsiasi paese ci sono persone di origine mista. Allora, Haider Rashid, regista del film Sta per piovere, in uscita in sala oggi 9 maggio e poi anche a seguire in altre città d'Italia. Haider, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, grazie dell'ospitalità. A presto, ciao. A presto. Questo è Visionari su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete seguirci in radio sugli 87.900 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'opzione sulla homepage Ascolta la diretta. Andiamo avanti. Ed è con noi finalmente Maria Sole Tognazzi, regista di Viaggio Sola, uscito in sala il 24 aprile scorso. Maria Sole, benvenuta a Visionari su Onda Rossa. Ciao, benvenuti a voi a casa mia in questo momento. Allora, intanto ti chiedo come sta andando, visto che è uscito già da qualche giorno. Beh, sta andando molto bene, direi oltre ogni aspettativa, perché siamo ancora tuttora il primo incasso italiano, è uscito da pochi giorni, è un film che è uscito con una distribuzione intelligente, con delle sale mirate, e onestamente siamo molto soddisfatti. Teodoro ha fatto un ottimo lavoro e il film sta andando di passaparola e ci ha dato tanta soddisfazione, sta andando molto molto bene. Bene. Per chi ci ascolta, come lo racconteresti in breve? Ma Viaggio Sola racconta la storia di una donna interpretata da Margherita Bui che come lavoro fa l'ispettore in incognito, cioè sono quegli ispettori che vanno di nascosto, fingendosi dei clienti, negli alberghi di lusso, negli alberghi 5 stelle, per valutare se lo standard è quello corretto e perfetto. E si svolge in 7 alberghi di lusso del mondo, quindi attraverso il film si viaggia, si entra in questi meravigliosi posti, da Shanghai a Marocco, Parigi, insomma è un bel viaggio, devo dire, anche all'interno del film, ma soprattutto racconta di una donna sola che però è molto felice di stare da sola, una donna che non ha una famiglia, che non ha dei figli, non ha un marito, ha superato i 40 anni ma è molto serena e felice della sua vita. Ecco, proprio rispetto a questo punto, Maria Sole, mi veniva proprio questo pensiero vedendo il film. Qual è l'approccio che ti ha ispirato, insomma, a raccontare questa storia? In una dimensione non di coppia, prevale il senso di libertà o la solitudine? Ma guarda, quello che nel film si racconta è che la solitudine, e la raccontiamo in chiave positiva e non in chiave malinconica, fa parte del nostro percorso, fa parte della nostra vita ed è una cosa che va accettata e che va vissuta con serenità, che è una solitudine che capita non solamente alle persone appunto che non hanno un compagno, che non hanno una famiglia, la solitudine, i momenti di solitudine sono vissuti anche all'interno di una coppia ad esempio, quindi basta saper valutare quella che è stata la scelta, diciamo, della nostra vita per capire che in fondo va sempre tutto bene, che c'è sempre un perché a tutto. In questo il film è una commedia con i suoi momenti di riflessione, eccetera, un film insomma brillante, come avrei capito, che ti fa riflettere e che però ti lascia, mi auguro, un senso di serenità, ecco. Sì. Sì, e questa è stata l'impressione vedendolo. Maria Sole, l'impulso a raccontare questa storia come è nato? È nato dal fatto che volevo raccontare una donna un po' atipica, una donna, cioè Gianmarco, questo tu è l'avviso di chiamata, chiedo scusa, non so se lo sentite anche voi. È nato dall'idea di raccontare una donna un po' diversa, sì. Cioè di uscire un po' dai cliché della donna sola che al cinema viene rappresentata normalmente o come una donna in carriera, per cui che vive solo per il lavoro e che per il business, che non è il caso del lavoro di Irene, oppure una donna problematica, una donna sola, una donna che ha dei problemi. Allora, vedendo questi personaggi femminili sempre più spesso, l'impulso è stato quello di raccontare una donna diversa, perché credo che oggi le donne, credo che oggi sia pieno di donne autonome, indipendenti, che vivono una vita piena, che cercano la propria realizzazione, non necessariamente nel divenire madri e mogli. Ecco, questo era il senso un po' che mi andava di raccontare, senza giudizio, perché poi nel film, quando vediamo la famiglia, quando vediamo gli altri personaggi, capiamo che in realtà non esiste una felicità che vada bene per tutti, che ognuno deve semplicemente trovare la propria. Quindi questo è stato l'impulso e l'istinto che mi ha spinto a scrivere il film. Oh, una cosa che ho avvertito a livello di scrittura vedendo il film è l'influenza, la mano di Ivan Cotroneo, che è sempre molto attento nel tratteggiare figure di donna. Il film l'abbiamo scritto non solamente con Ivan, sì, ma anche con Francesca Marciano. Devo dire che io devo moltissimo a questi due sceneggiatori straordinari. E ci siamo trovati molto molto bene insieme. Abbiamo innanzitutto un modo di pensare e di vedere la vita molto simile, ma non è quella la cosa importante, che abbiamo la stessa ironia, ad esempio, per cui il film, che è anche una commedia dei tratti appunto brillanti, viene fuori proprio anche grazie all'intuito e al divertimento di questi due sceneggiatori straordinari. Mm-hmm. Maria Sole, nel realizzare questo film si è un po' modificato rispetto alle intenzioni originarie? No, assolutamente no. No. È venuto, cioè, no, scusami, forse non ho capito la domanda. Se il film è cambiato rispetto a quello che volevamo fare? No, strada facendo, se insomma le varie interazioni tra sceneggiatori e attori, anche percorso, lo ha modificato? No, rispetto... devo dirti di no. Devo dirti che abbiamo seguito, per dire, nella realizzazione del film, siamo stati molto, abbiamo osservato la sceneggiatura e cercato di fare tutto quello che ci eravamo detti dall'inizio, anche rispetto alla direzione degli attori, alle location, a tutte le cose. No, non abbiamo avuto grossi cambiamenti di percorso, stupidaggini, non lo so, scelte di una stanza piuttosto che un'altra all'interno di un albergo, ma insomma sono cose meno importanti. Bene, allora io ti ringrazio, io un abbraccio e speriamo che continui il suo percorso. A risentirci presto, Maria Sole. A sentirci presto, vi volevo dire, mi permetto di dire una cosa, che domani sera, venerdì, saremo al cinema di Velletri, che è la città dove siamo andati vissuti, mio padre aveva casa, io e Gianmarco, a presentare il film alle 8, per cui saremo in sala e insomma mi fa piacere dirlo, perché è una presentazione un po' speciale in una città in cui siamo cresciuti e viviamo ancora. Bene, allora resta un attimo in linea. In collegamento con Salvatore Mereu, regista del film Bellas Mariposas, in uscita in sala oggi 9 maggio. Salvatore, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Ne avevamo già parlato con te alla presentazione, se non sbaglio, dov'era? A Venezia? Sì, a Venezia. Bene. Abbiamo presentato il film la prima volta. Allora, si esce in sala, raccontaci un po' per chi è all'ascolto e qual è il racconto della storia. Ma il film è tratto da un racconto di Sergio Azzeni, che in Italia ha pubblicato Sellegno, ed è un racconto di formazione, la storia di due ragazzine colte in un momento, diciamo, di passaggio delicato della loro vita. Hanno 12 anni, vivono in un quartiere non facilissimo come quello di Sant'Elia a Cagliari, che comunque assomiglia a tanti quartieri periferici di tante città italiane, e vivono cate sognando di fare la cantante, ma viene da un mondo in cui nessuno la prenderebbe sul serio. L'unico suo rifugio è la sua amica Luna, con la quale passano una giornata al mare, hanno varie vicissitudini, e il film è il racconto della loro giornata, ma anche il racconto di quel mondo, di quell'universo dove i ragazzi, come dire, sono un po' costretti a fare da soli, perché, come dire, gli adulti, i genitori hanno un po' abbandonato il proprio ruolo, o forse non sono più in grado di garantirlo. Intanto ti faccio i complimenti, Salvatore, l'ho visto il film, mi è piaciuto, ne ho voluto parlare nuovamente con te. Due aspetti in particolare, secondo me, sono particolarmente rilevanti: il degrado ambientale da un lato, e dall'altro l'atteggiamento maschile che vede la donna piuttosto come preda sessuale. Queste due cose, insomma, si sentono forti nel film. Sì, è vero, questo aspetto c'era anche nel racconto, e il film per certi versi, come dire, spinge anche su questo elemento. È vero che i maschi, diciamo, un po' dal racconto, un po' dal film, non ne escono benissimo, e in una società anche come la nostra, quella sarda, dove vige in maniera velata, dichiarata o no, il matriarcato, spesso le donne sono quasi costretti a fare da sé e a reggere molto spesso anche gli equilibri di una vita familiare, insomma. Kate, in un certo senso, ha già in nuce, in germe, quest'idea di ragazzina, di donna che deve diventare donna in fretta, perché non le è consentito di vivere fino in fondo la sua fanciullezza. Ecco, proprio un altro elemento forte del film sono i caratteri, la forza e la determinazione di queste due ragazzine, proprio a proposito del matriarcato che dicevi della società sarda. Sì, allora l'idea matriarcato, quando la si spende, appartiene molto alla società barbaricina, però in realtà vince un po' ovunque, anche nella periferia di Cagliari, che poi è anche il risultato di un innesto di persone che poi arrivano da più parti. Kate è una ragazzina tipica rispetto alle sue coetanee. Sì, sogna come tante sue coetanee di fare la cantante, però poi non è disposta a cedere il suo corpo come molti vorrebbero, perché difende un'idea tutta sua di amore, di sensualità, che nel quartiere in cui cresce è quasi derisa. In questo senso è abbastanza tipica, e in nome di questa sua idea combatte come una specie di piccola Giovanna d'Arco, dove la sua unica corazza è il costume che il narratore che l'ha inventata, Sergio Azzeni, gli mette indosso, e per il quale, insomma, farebbe una vera e propria battaglia, insomma. E la sua unica confidente, l'unica persona che parla la sua stessa lingua nel suo quartiere, è la sua amica Luna, con la quale poi, nel racconto, scopre anche di essere sorella. Senti, Salvatore, nella trasposizione dalla pagina scritta allo schermo, quali sono gli elementi del libro che hai voluto trasformare, e quali invece quelli che hai voluto sviluppare? Ma guarda, io mi sono obbligato alla fedeltà al testo, intanto l'occasione era straordinaria perché trovo il racconto veramente tra le cose più belle che non solo la letteratura sarda ma quella nazionale abbia prodotto in anni recenti. E poi quando si sceglie un testo letterario, pur poi dovendo approdare al cinema, io credo che in qualche modo la fedeltà sia obbligata, altrimenti uno parte da un soggetto originale. Il libro di Azzeni che ti dà ti consegna in un certo senso una grande responsabilità, perché ti porta in dote un grande racconto, poi nella pratica dell'adattamento è stato un libro parecchio insidioso, perché è un libro che ad esempio non ha dialoghi, si presenta come un lunghissimo monologo, tutto il racconto è visto attraverso gli occhi della protagonista, che come in una sorta di diario chiama in causa prima il lettore, nel film lo spettatore, e ci racconta la sua storia, ma era quanto di più lontano da quella che immaginiamo essere una sceneggiatura. Non c'ha una struttura, certo, in atti, non c'ha appunto, tutto il dialogo è riferito in modo indiretto, per cui era molto da inventare, però l'arco narrativo, i personaggi sono così ben definiti che viene solo voglia di farlo, insomma. Mm-hmm. E quindi alla fine siamo riusciti a trovare la misura, esatto, spero, e a cercare di conservare quella leggerezza che c'era soprattutto nel racconto e che è la cosa che ti conquista quando lo leggi per la prima volta. La cosa bella di questo racconto di Azzeni è che con una trama lieve è quasi a tratti anche comica, si racconta e si parla di un mondo che è terribile e si raccontano anche vicende drammatiche, ma sempre in punta di piedi, mai piangendosi veramente addosso, mai facendo facile denuncia sociale, insomma. Mm-hmm. Salvatore, arriviamo alla forma distributiva che hai scelto, avete scelto. Il film è già uscito in Sardegna e a quello che so ha avuto dei buoni risultati. Poi che ne raccontaci, ecco, un po' di questa esperienza e poi di quello che succederà a partire da oggi. Allora, diciamo che questa forma distributiva in verità non l'ho scelta, me la sono dovuta inventare, nel senso che il film subito dopo il Festival di Venezia, dove è stato presentato la prima volta, non ha trovato una distribuzione adeguata. Ci sono stati tanti contatti, ma nessuno che davvero garantisse al film una vita solida fuori da quello che era il luogo dove era nato, che è la Sardegna, dove appunto è uscito subito dopo Venezia e ha fatto un certo numero di spettatori. Siccome nessuno dei distributori con cui ero entrato in contatto era davvero disposto a scommettere, a quel punto ho deciso di fare da me con la società con cui poi l'ho anche prodotto, che ho creato insieme a mia moglie, Via Col Vento, abbiamo anche deciso di distribuirlo, facendo leva anche sull'entusiasmo che è nato poi là anche da alcuni esercenti che avevano magari visto il film a Venezia o in altri festival e hanno deciso di programmarlo, insistendo nel fatto che il film poi si mettono alla distribuzione. Mm-hmm. E così il film è uscito in alcune città, da oggi è a Roma, in altre città come Ancona, La Spezia, Verona, altre ne seguiranno, perché semplicemente alcuni esercenti, a Roma è stata Giorgetto D'Annunzio a farlo col cinema Alcazar, hanno deciso di scommettere su questo film, insomma. E a questo punto l'augurio è che è un grosso in bocca al lupo, Salvatore, per il tuo film, e anche spero di risentirti presto. Speriamo. Se ci sentiamo presto vuol dire che le cose saranno andate bene. Esatto, esatto. Un abbraccio, Salvatore, grazie. A risentirci presto. Ciao. Grazie a voi, grazie, a presto. Salvatore Mereu, regista di Bellas Mariposas, in uscita in sala oggi 9 maggio. Marco Palladini, ci sei? Ben ritrovato a Onda Rossa. Sì, ci sono, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ci eravamo sentiti in ambito teatrale, oggi invece trasmissione di cinema, prima un tuo lavoro che mescola insieme poesia e musica, questa volta invece il video. Stiamo parlando di un video di cui hai curato il progetto e la direzione artistica, ossia Fratello dei Cani, Pasolini e l'odore della fine, che sarà presentato alla Casa dei Teatri qui a Roma il 12 maggio, domenica. Marco, io partirei proprio da questo titolo. Sì, il videofilm parte da uno spettacolo che io ho fatto l'anno scorso a Centrale Preneste. Fratello dei Cani è leggermente modificato un verso di Pierpaolo Pasolini, a cui ho dedicato il sottotitolo, infatti è Pasolini e l'odore della fine. A cui era dedicato lo spettacolo, a cui è dedicato questo film, che è una sorta appunto di sviluppo in chiave cinematografica, di linguaggio cinematografico, sia pure come dire non convenzionale, del lavoro, che per me in qualche modo attraversava, come dire, la figura di Pasolini vista attraverso lo snodo dei suoi conflitti familiari. Sì. Il padre, la madre fondamentalmente, e poi la figura dei figli. Lui che aveva scelto, come dire, costitutivamente di rimanere figlio nel corso della sua vita, di non avere per appunto figli, anche perché appunto lo sappiamo tutti, era omosessuale, ma era proprio, non al di là del fatto appunto della sua omosessualità, era proprio, come dire, una condizione psicologica. E lui in qualche modo incontra i figli generazionalmente quando nel 68 appare il movimento 68 e lui ha un primo scatto di ribellione. Scrive quella famosa poesia Il PC ai giovani, in cui sostanzialmente prende le parti dei poliziotti contro gli studenti che si erano ribellati a Valle Giulia. E per me era interessante in qualche modo esaminare appunto tutte queste parti, che poi si ritrovano in qualche modo in tutta la sua opera, sia in prosa narrativa che in poesia. E insieme c'è il tema fortissimo che attraversa, ma fin dalle prime opere, fin dalle opere scritte negli anni 40, il tema della morte, che accompagna come un'ombra un po' tutta la vita e l'opera di Pasolini. In tantissimi punti della sua opera io ho riscontrato continuamente il fatto che lui parla della morte, quasi anticipandola, quasi in qualche modo desiderandola, e questa cosa mi ha impressionato, perché evidentemente è stato un elemento fortissimo appunto della sua ispirazione, anche della sua scrittura e tutta la sua, come dire, appunto poi operatività, che è stata, lo sappiamo, a 180 gradi. Sì, lui è stato, sì, appunto un romanziere, un poeta, un drammaturgo, un regista di cinema, un saggista molto famoso, un giornalista, comunicatore straordinario, insomma. Non c'è cosa che l'attacchi creativamente e intellettualmente. Anche per il teatro ha scritto cose. Ha scritto 6 opere molto importanti per il teatro, che sono state rappresentate anche da famosi, insomma, attori registi, penso a Vittorio Gassmano, a Luca Ronconi. Devo dire appunto, nonostante siano passati ormai ben 38 anni dalla sua, quasi 38 anni dalla sua morte, insomma, la figura di Pasolini, l'eredità, come dire, culturale, poetica, ma anche etica, politico-etica, insomma, etico-politica appunto, di Pasolini continua a essere presente tra noi. È come se lui fosse effettivamente una sorta, come dire, di profeta, che riuscisse a vedere molto, molto avanti ai suoi tempi. Non a caso io ancora oggi trovo molti giovani, appunto mi hanno invitato anche di recente a una serie di incontri dove ho presentato anche un'anteprima di questo film, e la domanda continua è per l'appunto su come Pasolini faceva in qualche modo ad anticipare, perché lui probabilmente con lo sguardo poetico-profetico riusciva a cogliere anche i nodi della nostra storia culturale, antropologica, sociale. Per questo mio videofilm, ecco, non ha un carattere di tipo narrativo, non è convenzionalmente narrativo né di tipo mimetico, però è evocativo, poetico evocativo. Ecco, proprio rispetto a questa non convenzionalità della forma che hai dato a questo discorso, il linguaggio artistico, su quali punti si sviluppa? Sì, dunque il film è suddiviso in 5 quadri, che sono sostanzialmente 5 incontri della figura del poeta che io stesso incarno nel film, e sono il viandante, il padre, la madre, il figlio e la morte. Quindi sono 5 tappe, come una sorta appunto di ideale via crucis, se vogliamo, del poeta. E il film è girato, io ho scelto il bianco e nero, perché il bianco e nero mi richiama tutta la prima cinematografia di Pasolini, per me fondamentale, penso ad Accattone, a Mamma Roma, alla Ricotta, perché il bianco e nero è immediatamente poetico. E sicuramente ci sono, come dire, delle citazioni più o meno appunto evidenti di Pasolini, ma anche di Bergman, per me anche nel taglio delle inquadrature di Antonioni, e poi c'è un riferimento per me molto preciso nella scelta che ho fatto di far parlare per l'appunto queste figure personaggi spesso a inquadratura fissa, ed è il cinema che io amo molto, un cinema considerato molto ostico, difficile, sperimentale, che è quello di Jean-Marie Straub e Daniel Ouillet, che sono appunto due straordinari appunto autori cosiddetti underground, però hanno attraversato insomma un po' tutta l'altra cinematografia, quella alternativa dagli anni, fino agli anni 60 fino appunto ancora ai primi appunto degli anni 2000. Quindi diciamo che io sono anch'io un cinefilo, e diciamo mi sono nutrito anche appunto di tante opere, di tanti autori, che in qualche modo in questa mia opera, che segna in qualche modo un debutto appunto nella progettualità, in qualche modo nella regia appunto filmica, videofilmica, e in questo modo diciamo queste mie ispirazioni sono tornate fuori. Marco, oltre al ricordare l'appuntamento alla Casa dei Teatri domenica 12 maggio, ci sono anche dei riferimenti internet per saperne di più su questo video? E ci sono una serie, per ora siamo ancora, come dire, in fase promozionale di lancio, dovremmo per l'appunto adesso aprire per l'appunto un blog su questo film, e su YouTube ci sono comunque un paio di clip, se si clicca Fratello dei Cani. Vorrei ricordare però appunto chi ha partecipato al film, perché la regia delle riprese della videomaker Yolanda La Carruppa. Poi accanto a me nel film recitano Fabio Traversa, l'attrice Cinzia Villari, e poi c'è il cantautore Amedeo Morrone che appare nel film, e poi le sue canzoni aprono e chiudono il film. Benissimo. L'appuntamento è appunto una sede prestigiosa, la Casa dei Teatri a Villa Panfili, al Villino Corsini, domenica 12 maggio alle ore 12. E seguirà poi un breve incontro, anche critico, a cui parteciperanno Dario Evola, che è docente di estetica all'Accademia delle Belle Arti di Roma, e poi Pigno Perilli, che è studioso di cinema, critico letterario e poeta, e coordinerà il tutto Paolo Ruffini, che è appunto rappresentante delle istituzioni del Comune di Roma. Benissimo Marco, allora un abbraccio e a risentirci presto. Benissimo, grazie a voi, un abbraccio a voi. Ciao. Un saluto. Questo era Marco Palladini, vi ricordo i contatti, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, e poi c'è la pagina del sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e poi la pagina Facebook di Visionari. Bene, sono previsti un altro paio di collegamenti che al momento ci stanno dando delle difficoltà. Sto parlando di un film, Paolo Minuto, nel distributore di Cineclub Internazionale Distribuzione, sul film The Parade, La Sfilata, che esce oggi in sala giovedì 9 maggio, e poi con Massimo Vattani, direttore di Contest, sull'incontro Pubblico in cerca d'autore, nuove forme di distribuzione dell'audiovisivo, all'interno della 10ª edizione del Festival delle Terre al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma. Domani 10 maggio alle ore 15 ci sarà sia lui che il sottoscritto per parlare appunto di queste nuove forme che si dà alla distribuzione in momenti di difficoltà per quanto riguarda proprio la sala in se stessa. Però al momento, allora, intanto vi ricordo un po' di numeri per chiamarci. Il numero di telefono è 06 49 17 50. Invece, per sottoscrivere, visto che questa radio vive grazie a chi l'ascolta, il numero di conto corrente postale è 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volci 56 00185 Roma. Oppure basta andare sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce sostieni sulla homepage, e troverà la modalità PayPal. Per quanto riguarda invece l'ascolto, oltre ad essere sulla frequenza in FM 87900, si può ascoltare anche in streaming, sempre dal sito internet della radio. Sulla homepage c'è l'opzione Ascolta la diretta. Per comunicare con noi, il numero di telefono già l'ho dato, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, e poi abbiamo due opzioni, sia la pagina internet del sito della radio alla voce trasmissioni Visionari, e sia la pagina Facebook di Visionari. Allora, è con noi Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlare con lui del film The Parade, in uscita in sala oggi 9 maggio. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, grazie a voi di avermi contattato. Sono contento di averti perché il film, ho avuto modo di vederlo ieri, c'è stata la presentazione stampa, un film importante. Io però comincerei intanto a parlare dell'esperienza di Cineclub Internazionale Distribuzione, e poi arriviamo chiaramente a questo film. Sì, il nome della distribuzione indica lo spirito da Cineclub che anima la scelta e l'attività di questa piccola impresa. Io vengo da questo mondo, dal mondo del Cineclub, e quindi per questo ho voluto provare a concretamente dare un po' più di offerta al pubblico cinematografico italiano e internazionale. Abbiamo iniziato facendo la distribuzione internazionale di film noti almeno a una parte del pubblico, sicuramente ascoltatori di Radio Imposta, come Cima con lo scherzo di Piazza Vittorio e poi anche Ossidiana di Silvana Maia. E come distribuzione nazionale abbiamo iniziato con una commedia come Aspromonte italiana quest'anno, ma adesso iniziamo con Listino vero e proprio d'essai, e The Parade ci sembrava il modo più interessante di iniziare con Listino d'essai, perché è un film, come hai già detto tu, molto importante per il tema, ma anche secondo me molto godibile, e non a caso ha vinto il premio del pubblico sia a Berlino che a Torino al Festival Gay, ma poi ha vinto il primo premio al Mad Film Festival l'anno scorso qui a Roma a novembre, pochi mesi fa. Allora, una personalità molto interessante, Serjan Dragojevic, oltre ad essere produttore, sceneggiatore e regista, anche poeta. Sì, lui ha lavorato anche molto come psicoterapeuta nella sua vita, e ha detto che ha voluto scrivere questo film come strumento di comunicazione, e ha pensato, scrivendo i personaggi di questo film, alla persona omofobica media, perché lui voleva rivolgersi proprio a questo tipo di persone per dare l'idea in realtà di quanto sia terribile e violenta l'omofobia. Quindi ha voluto fare una sorta di terapia in commedia, in versione da commedia, e la risposta del pubblico fino adesso dimostra che è riuscito a fare breccia anche in coloro che sono la maggioranza, purtroppo sono ancora affetti dall'omofobia. Ecco, proprio a questo proposito, per chi ci ascolta, diciamo subito che The Parade, la sfilata, parte da un episodio, ossia il primo e unico tentativo di organizzare un Gay Pride a Belgrado nel 2010, poche centinaia di rappresentanti della comunità LGBTQ anche internazionali, scortati da migliaia di poliziotti, furono attaccati da bande di teppisti, sia neonazisti che hooligans. Il centro cittadino fu messo a ferro e fuoco, oltre 200 feriti. Insomma, un episodio che la dice lunga sul grado di intolleranza e omofobia di quella società. Sì, certo, anche se ovviamente io punterei non ad accusare una specifica, certo, popolazione, perché questo problema riguarda anche l'Italia. È chiaro che a Belgrado si sono verificati degli eventi particolarmente violenti, ma sono stati particolarmente violenti anche perché si sono uniti a elementi nazionalisti che già esistevano ed erano violenti in quel paese, e quindi hanno scatenato la loro violenza eccitando i sentimenti omofobi. Purtroppo è meglio che non accadano questi eventi, però non è che in Italia, perché non accadono eventi così violenti durante il Pride, significa che non ci siano problemi. Certo. I problemi ci sono anche perché la maggioranza, magari omofoba, non saprei calcolarlo, ma suppongo sia la maggioranza purtroppo ancora, omofoba ma silenziosa, e poi contribuisce a un clima di silenzio quando ci sono singole aggressioni a coppie gay, e questo è un problema quindi anche nostro. Certo. Però è chiaro che l'evento tragico che da cui poi prende spunto il film è un evento naturalmente molto grave, e il film lo tratta in modo direi intelligente, perché non ha scelto la tragedia e il dramma per raccontarlo, ma ha scelto un modo più profondo che la commedia, ma la commedia fatta in modo approfondito e non troppo leggero. Sì, dicevo, chiaramente, come facevi anche notare tu, è un problema che riguarda la comunità internazionale nel suo complesso. Il merito di questa commedia, che poi diventa un commovente dramma, è anche un'analisi della società, per cui mostra quanto sia diffusa un uso della forza piuttosto diffuso nella società, che va dai combattimenti, le scommesse sui combattimenti dei cani, a ex militari e criminali che a pagamento sgomberano le baracche dei Rom, caricano e picchiano gli studenti che stanno manifestando, oppure fanno da guardiaspalle a guerrafondai e mafiosi locali, insomma. Sì, certo, c'è molto sviluppato nella cura della descrizione dei personaggi l'elemento umano, nel senso non retorico, e l'elemento dei veterani di guerra, perché stiamo parlando di tanti paesi dell'ex Jugoslavia che si sono combattuti e che oggi hanno coprodotto questo film, ma i paesi hanno coprodotto questo film e gli ex combattenti sono raccontati in questo film come veterani, e i loro rapporti sono rapporti che sono narrati in questo film in maniera anche toccante, come dicevi tu, commovente. Ma l'elemento dei gruppi che sono anche a pagamento, vanno a sgomberare appartamenti o altro, richiama molto quello che sta accadendo in Grecia con Alba Dorata. Alba Dorata è un movimento che richiama questo che viene raccontato nel film, cioè un movimento neonazista che in Grecia sta conquistando anche consenso proprio facendo questo tipo di operazioni sporche e violente. Un altro elemento interessante del film è che il protagonista anche un'amicizia, ha vissuto le guerre balcaniche degli anni 90, e quell'esperienza ha poi sviluppato una curiosa amicizia interetnica tra chi si è combattuto, magari si è salvato la vita a vicenda, e questo un po' rende l'idea di quella che è stata la follia fratricida di quel conflitto. Non a caso sottolineavi il fatto che è una coproduzione serba, croata, macedone, montenegrina, slovena. Sì, infatti, la cosa importante è che lui racconta, raccontando i rapporti tra questi personaggi, racconta una realtà che sta avvenendo adesso, cioè le persone che si sono combattute, che si sono odiate a morte durante la guerra, adesso si ritrovano come una comunità di perdenti, di persone che realizzano, questo diceva Sergio Dragojevic, proprio lui direttamente commentava dicendo che oggi si riconoscono come tutti perdenti, hanno combattuto per cause apparentemente diverse, ma alla fine fine si realizzano di essere stati usati dai nazionalisti, dai governi, e hanno perso tutti anche la loro identità e la loro vita, e quindi adesso stanno nascendo addirittura delle istituzioni di mutua assistenza tra i veterani, e questo la dice lunga su cosa è rimasto ancora molto molto profondo da questa guerra, e quindi il film racconta anche questi aspetti di rapporti tra i vari paesi, che poi in fondo parlano quasi tutti sostanzialmente la stessa lingua, con poche differenze. Sloveno e Macedone sono un po' diversi, ma insomma Serbia, Croazia e Bosnia comunque parlano la stessa lingua, con delle varianti solo lessicali, quindi insomma questo dimostra che è stato davvero un periodo assolutamente incredibile, sulle cui cause forse ancora non si è indagato abbastanza. Paolo, arriviamo alla distribuzione, ad oggi nelle sale come funzionerà per The Parade? Dunque, noi essendo una distribuzione indipendente naturalmente dobbiamo lavorare molto porta a porta, perché purtroppo il mercato cinematografico italiano è abbastanza chiuso da vari circuiti e quindi molte sale sono un po' bloccate, però noi partiamo comunque con molto entusiasmo, grazie a molti esercenti che sono invece più liberi e indipendenti, e quindi partiamo oggi con Catania, Trieste, Milano, e poi segnalo a Roma al Cinema Aquila da venerdì 17, a Trento dal 15, poi Perugia parte anche da oggi, poi ci saranno altre città come Pisa, Messina, e poi man mano si allargherà, perché abbiamo avuto richieste da Genova, da Torino, e quindi insomma questo modo di attraversare l'Italia, ripeto, porta a porta, secondo me poi potrà diffondere il film. Naturalmente se gli spettatori andranno a vederlo e mostreranno di apprezzarlo, questo aiuterà molto la sua diffusione. Benissimo Paolo, un abbraccio e a risentirci presto, magari con delle novità di Cineclub Distribuzione Indipendente Internazionale. Certo, senz'altro, volentieri, grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e andate al cinema. Bene, grazie. Ciao Paolo. Bene, siamo in chiusura, vi ricordo nuovamente, avremmo dovuto contattare Massimo Vattani, direttore di Contest, per parlare dell'incontro Pubblico in cerca d'autore, nuove forme di distribuzione dell'audiovisivo, che si terrà domani 10 maggio alle ore 15 per la 10ª edizione del Festival delle Terre al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma. Ci sarà lui, ci sarò anch'io, e alcune forme, appunto, nuove forme di distribuzione indipendente, e ne parleremo insieme. Domani vi ricordo l'appuntamento alle ore 15. Per quanto riguarda Visionari, l'appuntamento è a giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15.